Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo undicesimo. L'obbedienza. Soltanto la carità ci eleva alla perfezione. Ma l'obbedienza, la povertà e la castità sono i tre grandi mezzi per acquistarla. L'obbedienza consacra il nostro cuore, la castità il nostro corpo e la povertà i nostri beni. Li consacrano all'amore e al servizio di Dio. Sono i tre bracci della croce spirituale che poggiano sul quarto, che è l'umiltà. Non intendo parlare di queste virtù in quanto oggetto di voto pubblico. Riguarda soltanto i religiosi. E nemmeno in quanto oggetto di voto privato, perché il voto aggiunge sempre grazie e meriti a tutte le virtù. Tuttavia, per portarci a perfezione, non è necessario che siano oggetto di voto. L'importante è che siano vissute. Quando sono legate al voto, soprattutto se pubblico, mettono l'uomo nello stato di perfezione. Per metterlo invece semplicemente nella perfezione, è sufficiente viverle. C'è molta differenza tra lo stato di perfezione e la perfezione. Tutti i vescovi e religiosi sono nello stato di perfezione, ma non per questo sono nella perfezione, il che si vede anche troppo. Filotea, sforziamoci di mettere bene in pratica queste tre virtù, ciascuno secondo la propria vocazione. È vero che non ci mettono nello stato di perfezione, ma ci daranno l'autentica perfezione. Tutti siamo obbligati a praticare queste tre virtù, anche se non tutti allo stesso modo. Due sono i generi d'obbedienza: l'obbligatoria e la volontaria. In forza dell'obbligatoria, devi obbedire umilmente ai tuoi superiori ecclesiastici, come il Papa, il Vescovo, il Parroco, i loro rappresentanti. Devi poi obbedire ai tuoi superiori civili, ossia il principe e i magistrati da lui preposti al governo del tuo paese. Poi devi obbedire anche ai tuoi superiori familiari, ossia tuo padre, tua madre, il padrone e la padrona. Questa obbedienza si chiama obbligatoria perché nessuno può dispensarsi dall'obbligo di obbedire ai superiori sunnominati, perché è Dio che ha dato loro l'autorità di comandare e di governare, ognuno nei suoi limiti. Fa dunque quello che ti è comandato, è necessario. Ma per essere perfetto, devi seguire i loro consigli e anche i loro desideri e le preferenze nella misura in cui te lo permettono la prudenza e la carità. Obbedisci quando ti ordinano una cosa gradevole, come mangiare, prendere un po' di ricreazione. Può anche sembrare che non ci sia grande virtù ad obbedire in queste cose. È certo però che sarebbe un difetto grave, disobbedire. Obbedisci nelle cose indifferenti, quali indossare un abito anziché un altro, passare per strada anziché per un'altra, cantare o tacere. Sarà un'obbedienza molto preziosa. Obbedisci nelle cose difficili, aspre e dure. Quella sarà un'obbedienza perfetta. Obbedisci poi con dolcezza, senza repliche, con prontezza, senza ritardi, con gioia, senza tristezza. Soprattutto obbedisci per amore di colui che, per amore nostro, si è fatto obbediente fino alla morte di croce. E che, come dice San Bernardo, preferì rinunciare alla vita piuttosto che all'obbedienza. Per imparare ad obbedire con facilità ai tuoi superiori, accondiscendi senza difficoltà alla volontà dei tuoi pari, cedendo al loro parere in ciò che non ha nulla di male, lasciando da parte un comportamento litigioso, aspro. Adattati volentieri ai desideri dei tuoi inferiori nei limiti del ragionevole, senza prendere atteggiamenti intransigenti d'autorità, almeno finché si comportano bene. È falso credere che da religioso o da religiosa ci sarebbe più facile obbedire. Sarebbe la stessa cosa. Se ora troviamo difficile, arduo, obbedire a coloro che Dio ci ha preposto, nulla cambierebbe mutando stato. Chiamiamo obbedienza volontaria quella a cui ci leghiamo per nostra scelta e che non c'è imposta da alcuno. Abitualmente il vescovo non lo scegliamo noi, né il padre né la madre, qualche volta nemmeno il marito. Ma scegliamo invece il confessore e il direttore spirituale. Ora, sia che alla scelta si aggiunga il voto di obbedirgli, o anche senza voto, si prometta obbedienza a qualcuno, questa rimarrà sempre un'obbedienza volontaria, perché è decisa dalla nostra volontà, in base alla nostra scelta. Bisogna obbedire a tutti i superiori, a ciascuno nel campo che lo riguarda. Per ciò che riguarda lo Stato e la cosa pubblica, bisogna obbedire alle autorità civili. Per ciò che riguarda il campo religioso, ai vescovi. Per le cose di casa, al padre, alla madre. Per la guida personale dell'anima, al confessore e al direttore spirituale. Fatti indicare dal padre spirituale gli esercizi di pietà che devi praticare. Riusciranno meglio e avranno doppia grazia, doppio valore. La prima per se stessi, perché sono pii esercizi. L'altra la ricevono dall'obbedienza che li ha prescritti e in virtù della quale sono compiuti. Gli obbedienti sono dei fortunati, perché il Signore non permetterà mai che si perdano. Capitolo 12. La necessità della castità. La castità è il giglio delle virtù. Rende gli uomini simili agli angeli. Niente è bello se non è puro. E la purezza degli uomini è la castità. Alla castità si dà il nome di onestà. E alla sua conservazione, onore. Viene anche chiamata integrità e il contrario, corruzione. Gode di gloria tutta speciale perché è la bella e splendida virtù dell'anima e del corpo. Non è mai permesso prendere piaceri impudichi dai nostri corpi, poco importa in che modo. Li legittima solo il matrimonio che con la sua santità compensa il discredito insito nel piacere. Anche nel matrimonio occorre avere cura che l'intenzione sia onesta, perché se ci dovesse essere qualche sconvenienza nel piacere che si prende, ci sia sempre l'onestà nell'intenzione che lo ha cercato. Il cuore casto è come la madreperla, che può ricevere solo le gocce d'acqua che scendono dal cielo, giacché può accogliere solo i piaceri del matrimonio, che viene dal cielo. Fuori di ciò, non deve nemmeno tollerare il pensiero voluttuoso, volontario e prolungato. come primo grado in questa virtù filotea, guarda di non accogliere in te alcun genere di piacere inammissibile e proibito, quali sono tutti quelli che si prendono fuori del matrimonio, o anche nel matrimonio, se si prendono contro le regole del matrimonio. Come secondo grado, taglia, per quanto ti sarà possibile, anche i piaceri inutili e superflui, benché permessi e leciti. Per il terzo, non legare il tuo affetto ai piaceri e alle soddisfazioni che sono comandate e prescritte. È vero che bisogna prendere i piaceri necessari, ossia quelli che sono legati al fine e alla natura stessa del santo matrimonio. Ma non per questo devi impegnare in essi il cuore e lo spirito. Del resto, tutti hanno molto bisogno di questa virtù. Coloro che vivono nella vedovanza devono avere una castità coraggiosa, che non solo disprezza le occasioni presenti e future, ma resiste alle fantasie che i piaceri illeciti provati nel matrimonio possono suscitare nel loro spirito, che per questo sono più sensibili alle suggestioni poco oneste. È questa la ragione per cui Sant'Agostino ammira la purezza del suo caro Alipio, che aveva completamente dimenticato e non teneva in alcun conto i piaceri carnali, che aveva conosciuto almeno in parte nella sua giovinezza. Prendi a paragone i frutti. Un frutto sano e intero può essere conservato o nella paglia o nella sabbia o nelle proprie foglie. Ma una volta intaccato, è impossibile conservarlo se non facendone marmellata con l'aggiunta di miele e zucchero. Così avviene per la castità non ancora ferita e contaminata. Sono tanti i modi per conservarla, ma una volta intaccata può conservarla soltanto una devozione eccellente, che, come ho detto spesso, è l'autentico miele e lo zucchero delle anime. Le vergini hanno bisogno di una devozione semplice e delicata per bandire dal loro cuore ogni genere di pensieri curiosi ed eliminare con un disprezzo totale ogni genere di piacere immondo, che ad essere sinceri non meritano nemmeno di essere desiderati dagli uomini. Quelle anime pure stiano bene attente. Senza alcun dubbio dovranno sempre avere per certo che la castità è incomparabilmente molto meglio di tutto ciò che le è contrario. Dice San Girolamo, il nemico spinge fortemente le vergini al desiderio di provare il piacere. A tal fine lo rappresenta loro molto più attraente e delizioso di quanto non sia. E questo le turba molto, perché pensano che quello che non conoscono sia più dolce. C'è maestra la piccola farfalla. Vedendo la fiamma così bella, vuole provare se non sia anche altrettanto dolce. E spinta da questo desiderio, non si arrende finché alla prima prova ci rimane. I giovani agiscono allo stesso modo, si lasciano talmente affascinare dal falso e vuoto luccichio delle fiamme del piacere, che dopo averci girato intorno con mille pensieri curiosi, finiscono per cadere e perdersi. In questo sono più sciocchi delle farfalle, perché quelle, in una certa misura, hanno motivo di pensare che il fuoco sia anche buono perché è veramente bello, mentre questi sanno bene che quello che vogliono è disonesto, ma non per questo tagliano la stima folle ed esagerata che hanno del piacere. Per gli sposati dico che è sicuro, anche se la gente comune non riesce a pensarlo, che la castità è loro molto necessaria. Per essi non consiste nell'astenersi in modo totale dai piaceri carnali, ma nel sapersi moderare. Ora, a mio parere, il comando «adiratevi e non peccate» è più difficile di quest'altro. Non adiratevi affatto. Riesce più facile evitare la collera che controllarla. Lo stesso si può dire dei piaceri carnali. È più facile astenersene completamente che essere moderati. È vero che la grazia del sacramento del matrimonio dà una forza particolare per attenuare il fuoco della concupiscenza, ma la debolezza di coloro che ne usufruiscono passa facilmente alla permissività, poi alla dissoluzione, dall'uso all'abuso. Molti ricchi sono ladri non per bisogno, ma per avarizia. Così molta gente sposata ruba piaceri disordinati solo per mancanza di padronanza e lussuria, benché abbiano un campo legittimo sufficientemente ampio nel quale muoversi. La loro concupiscenza assomiglia ad un fuoco fatuo che balla qua e là senza fermarsi in alcun luogo. È sempre pericoloso prendere medicine troppo forti, perché qualora se ne prenda più della giusta dose, o anche se la medicina non è stata ben preparata, ce ne viene il danno. Il matrimonio è stato istituito in parte anche quale rimedio della concupiscenza. Senz'altro è un rimedio di ottima efficacia, ma attenzione, perché è molto forte e di conseguenza può essere molto pericoloso se non è usato con discrezione. Aggiungo che i casi della vita, oltre alle lunghe malattie, spesso separano i mariti dalle mogli. Ecco perché gli sposati hanno bisogno di due generi di castità. La prima per essere capaci di vivere in astinenza assoluta quando sono separati, nelle occasioni cui ho appena accennato. La seconda per essere capace di moderarsi quando vivono insieme. Santa Caterina da Siena vide tra i dannati dell'inferno molti che erano tormentati con supplizi particolarmente atroci per avere profanato la santità del matrimonio. E questo era loro capitato, diceva, non per la gravità del peccato in sé, perché gli omicidi e le bestemmie sono più gravi, ma perché coloro che li avevano commessi vi avevano preso l'abitudine, senza farci più caso. E così avevano persistito negli stessi per lungo tempo. Vedi dunque che la castità è necessaria a tutti. Procura di essere in pace con tutti, dice l'Apostolo, e di possedere la santità senza di cui nessuno vedrà Dio. Ora, per santità, secondo San Girolamo e San Giovanni Crisostomo, intende la castità. Filotea, è proprio vero, nessuno vedrà Dio se non è casto, nessuno abiterà nella sua santa tenda se non è puro di cuore. E come dice il Salvatore stesso, i cani e i peccatori di sensualità ne saranno esclusi. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Capitolo tredicesimo. Consigli per conservare la castità. Filotea, tieniti lontana dagli inganni e dagli allettamenti della sensualità. È un cancro che corrode impercettibilmente e da inizi invisibili ti porta in breve tempo a situazioni incontrollabili. È più facile evitarlo che guarirlo. I corpi umani assomigliano a vasi di vetro che non possono essere trasportati insieme senza porre qualcosa tra l'uno e l'altro. Senza tale precauzione, il rischio di mandarli in pezzi è molto grande. Anche la frutta ci può insegnare qualcosa. Infatti, anche se la frutta che trasporti è sana e matura al punto giusto, rischi di ammaccarla tutta sballottandola, se non metti qualcosa tra un frutto e l'altro. Anche l'acqua, per limpida che sia, quando la versi in un vaso, se ci mette il muso un animale sporco, la sua limpidezza è svanita. Non permettere mai, Filotea, che qualcuno ti tocchi in modo screanzato, né per leggerezza, né per amicizia. È vero che volendo la castità può essere conservata anche in simili situazioni, che sanno più di leggerezza che di malizia. Ma la freschezza del fiore della castità ne soffre sempre e ci perde qualcosa. Se poi uno si lascia toccare in modo disonesto, è la fine totale della castità. La castità ha la sua radice nel cuore, ma è il corpo la sua abitazione. Ecco perché si perde a causa dei sensi esteriori del corpo e per i pensieri e i desideri del cuore. Guardare, ascoltare, parlare, odorare, toccare cose disoneste è impudicizia se il cuore vi si immerge e ci prende piacere. San Paolo taglia corto. Dice: «La fornicazione non deve nemmeno essere nominata tra di voi». Le api evitano nel modo più assoluto di toccare le carogne, ma non basta. Fuggono e non riescono nemmeno a sopportare il lezzo che ne emana. Nel Cantico dei Cantici, la sposa dalle mani distilla mirra, profumo che preserva dalla corruzione. Le sue labbra sono coperte di un nastro rosso, segno del pudore delle sue parole. I suoi occhi assomigliano a quelli di una colomba per la loro purezza. Il suo naso è incorruttibile come i cedri del Libano. È così che l'anima devota deve essere: casta, pura, onesta di mani, di labbra, di orecchie, di occhi e di corpo. A questo proposito ti riporto quello che dice il padre del deserto Cassiano, come uscito dalla bocca del grande San Basilio, che un giorno disse, parlando di se stesso: «Non ho mai conosciuto donne, eppure non sono vergine». La castità si può perdere in tanti modi, quanti sono i generi di impudicizie che poi, secondo che sono grandi o piccole, l'indeboliscono, la feriscono o la fanno morire del tutto. A voler essere nel giusto, certe familiarità, certe passioncelle leggere, un po' sensitive, non ledono gravemente la castità, tuttavia la indeboliscono, la rendono malaticcia, offuscano il suo splendore. Ci sono poi altre familiarità e passioni che non solo sono discrete, ma viziose. Non soltanto leggere, ma disoneste. Non soltanto sensitive, ma carnali. E la castità da queste ne rimarrà sempre ferita, almeno paralizzata. Ho detto almeno perché abitualmente muore e scompare del tutto quando le leggerezze danno alla carne il massimo del piacere voluttuoso, perché in tal caso la castità perisce nel modo più indegno, perverso, più infelice che si possa immaginare. È peggio di quando si perde per fornicazione, per adulterio e incesto, perché questi ultimi sono soltanto peccati. Ma gli altri, dice Tertulliano nel libro dell'impudicizia, sono mostri di iniquità e di peccato. Cassiano non crede, e io nemmeno, che San Basilio si riferisca a queste sregolatezze quando dice di non essere più vergine. Penso che si riferisse solo ai cattivi pensieri di sensualità, che pur non avendo contaminato il corpo, avevano contaminato il cuore, della cui castità abitualmente le anime riservate sono molto gelose. Nel modo più assoluto, Filotea, non frequentare le persone licenziose, soprattutto se in più sono anche svergognate, il che avviene quasi sempre. E sai perché? Sono come i caproni, che leccando i mandorli dolci, li rendono amari. Quelle anime maleodoranti, quei cuori infetti, non riescono a conversare con alcuno, poco importa di quale sesso, senza trascinarlo in qualche modo nell'impudicizia. Hanno il veleno negli occhi e nell'alito, come i basilischi. Frequenta piuttosto le persone virtuose. Pensa e leggi spesso cose sante, perché la parola di Dio è casta e rende casti coloro che vi si compiacciono. Sicché Davide la paragona al topazio, pietra preziosa che ha la proprietà di calmare l'ardore della concupiscenza. Tieniti sempre vicino a Gesù Cristo crocifisso. Fallo spiritualmente con la meditazione e realmente con la santa comunione. perché allo stesso modo che coloro i quali si coricano sull'erba detta Agnus Castus diventano casti e puri. Se tu riposi il cuore su nostro Signore, che è il vero agnello casto e immacolato, scoprirai presto che la tua anima e il tuo corpo sono mondati da tutte le sozzure e le sensualità. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.